Oggi parliamo di cantieri, cantieri che sono importanti per la regione Emilia-Romagna, ma che sono anche un segnale del passo che vogliamo segnare in questo mandato dal punto di vista dell'approccio, ma anche dell'intensificazione dell'azione che stiamo attivando. Cantieri programmati e pianificati per l'anno in corso sono cantieri per 90 milioni di euro e sono 492 cantieri che noi realizzeremo come sistema di difesa del suolo e di protezione civile nell'ambito del nostro territorio regionale. Sono interventi importanti che noi stiamo mettendo in campo e sono relativi a fondi, a stanziamenti in parte di carattere nazionale, derivanti in principal modo dal Proteggi Italia, in parte derivanti dai fondi ministeriali dell'ambiente e in parte derivanti anche dall'ultimo decreto e dall'ultima ordinanza di protezione civile relativo agli eventi che sono successi a dicembre. Abbiamo quindi interventi in tutta la nostra regione, 60 interventi previsti sul Piacentino, 47 sul Parmense, 72 a Reggio Emilia, 125 a Modena, 50 a Bologna, 45 a Ferrara, 21 a Ravenna, 38 a Forlì e 24 a Rimini, appunto per 492 interventi previsti e programmati. Questo lavoro è all'interno di un progetto che può rendere conto in maniera plastica, non avere proprio grande operazione di trasparenza nei confronti anche dei cittadini e di tutti gli stakeholders che sono interessati al mondo della sicurezza del territorio. Questi 90 milioni sono all'interno di opere che noi stiamo portando avanti per complessivamente 765 milioni di euro. Questi interventi sono derivanti da finanziamenti che sono partiti dal 2015 fino ad oggi e che in questo momento sono attivi nel nostro territorio. A partire da oggi sarà online una nuova pagina del sito della Regione Emilia-Romagna, cura e prevenzione, che sono tutti i cantieri che noi abbiamo in essere in questo momento, che sono programmati come quelli che vi stiamo presentando e di cui vi parlavo prima. È una rappresentazione, una fotografia molto importante, è un sistema avanzato che noi abbiamo realizzato insieme ai nostri servizi attraverso le mappe GIS, attraverso il sistema georeferenziato geografico che consente non soltanto la localizzazione degli interventi, abbiamo 765 milioni di intervento per 4.000 interventi sulla nostra regione. Diverse sono le possibilità, diciamo, di indagine, di analisi che non soltanto voi ma anche i cittadini potranno fare, per cui la mappa tiene conto di diversi aspetti e di diversi interventi che vengono fatti dalla nostra agenzia regionale, da AIPO, dai comuni e anche dai consorzi di bonifica. La complessità che abbiamo messo in campo è proprio quella di acquisire tutte le banche dati di tutti questi soggetti attuatori per fare in modo che ci sia una rappresentazione completa di tutti gli interventi che vengono fatti in regione. Le mappe che abbiamo realizzato hanno diverse caratteristiche. Uno, intervenendo sulla localizzazione di ambito, può vedere che tipi di interventi abbiamo messo in campo, da chi vengono realizzati, il costo dell'intervento e lo stato, diciamo, di attuazione. Noi abbiamo previsto anche la possibilità di valutare, di vedere queste mappe di intervento non soltanto per città, ma anche per provincia, ma anche per fonti di finanziamento. Cosa vuol dire? Che noi lavoriamo sulla difesa del suolo in parte per risorse derivanti dalla programmazione del Ministero dello Stato, ma in parte derivanti anche dalle emergenze che noi abbiamo avuto. Per cui abbiamo la possibilità di vedere le mappe georeferenziate proprio per la diversificazione e la tipologia di intervento che noi mettiamo in campo e possiamo realizzare. Quindi è un grande salto di qualità che noi abbiamo messo in campo. Quindi questo è un lavoro di grande trasparenza e innovativo che la Regione vuole presentare e che noi ogni 6 mesi aggiorneremo dal punto di vista dell'attualizzazione dello stato d'avanzamento dei lavori dei cantieri.